Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova trasmissione di Restiamo Animali. 351esima puntata. E non diciamo poco, 351 puntate a partire dal marzo del 2012. Oggi io e Giuseppe ci sostituiamo alla nostra Camilla, che è andata a festeggiare i suoi primi 70 anni all'estero. Non sono proprio 70, ma comunque tocca a noi condurre questa puntata tenendo fede al nostro impegno, che è quello di raccontare gli animali non umani attraverso lo strumento del giornalismo radiofonico, quindi con notizie, cultura, filosofia, cucina, rigorosamente cruelty free. La trasmissione di oggi è dedicata all'orso Bruno. L'orso siberiano di 36 anni, nato prigioniero da due orsi regalati dal regime comunista dell'Unione Sovietica alla cittadina all'epoca più rossa d'Italia, Cavriglia, in provincia di Arezzo. Gli dedichiamo la puntata perché Bruno se n'è andato nei giorni scorsi. I due orsi, genitori di Bruno, furono regalati al comune in memoria di Nikolaj Bujanov, il partigiano ucraino morto nella resistenza italiana. È davvero molto triste dover collegare la non vita di Bruno alla resistenza partigiana. È un dolore pensare a tutto quello che gli è stato tolto, a partire dalla libertà, buttata a vivere in una buca con le pareti di cemento armato. A Cavriglia Bruno era uno degli ospiti prigionieri di un parco pubblico, una specie di zoo che negli ultimi anni era semi dimenticato. Bruno, nella fase finale della sua vita, ha ispirato il progetto Io sto con Bruno della Leal, che ha cercato di alleviare la sofferenza e l'abbandono in cui versava e che ha portato alla liberazione degli altri prigionieri di Cavriglia, un pony, dei maiali, dei macachi e molti altri animali, che sono finiti in santuari e rifugi dove vivranno nel miglior modo possibile. Bruno ha resistito durante tutto il progetto e ha mollato solo quando è stato garantito un futuro a tutti gli altri. E adesso Bruno corre via in posti sicuramente più ridenti di dove ha vissuto. Vi proponiamo una parte del servizio che facemmo tempo fa a Cavriglia. Parliamo con Marina Manichelli del progetto che riguarda l'orso. Bruno è qui da molto tempo, è un orso di età ragguardevole. Quanti anni ha Bruno? Bruno ha circa 40 anni, sui 37 noi ipotizziamo. Lui e Lisa, appunto, la compagna, che poi nel corso del tempo hanno dato vita a questi due figli, Valente e Valentina, che poi sono morti intorno al 2000. Valentina era stata affidata allo zoo di Roma, invece Valente morì qui. Anche Lisa non c'è più? Lisa non c'è più, sì. Diciamo la morte di Lisa è stata per Bruno veramente un lutto, insomma, nel vero senso della parola, perché è stato un degenerare della situazione, va bene, clinica, e lui che l'ha vegliata tutta la notte, quando poi è morta e l'hanno portato via, lui che ha cominciato a scuotere le sbarre, insomma, ci sono state proprio scene piuttosto strazianti. Bruno è destinato a rimanere qui, per lui non ci può essere un progetto di spostamento in un luogo più accogliente? Allora, purtroppo no, perché l'età ragguardevole di Bruno rende impossibile lo spostamento per due fattori principali. Il primo è che non reggerebbe la sedazione, è necessaria invece questo tipo di trasporto. Secondo, l'età è talmente avanzata che spostato dal suo ambiente, perché comunque questo è il suo ambiente, ci ha passato una vita, non reggerebbe il cambiamento. Qual è il progetto ora che riguarda Bruno? Allora, il progetto Io sto con Bruno uno è stato proprio questo, di rivalutare tutta la condizione di cattività di Bruno e di migliorarla con quello che è possibile. Quando appunto i ragazzi del CARA l'hanno scoperto, purtroppo Bruno era in uno stato quasi di apatia. Con questo progetto io la prima cosa che ho potuto fare proprio a livello di emergenza in 10 giorni appena mi hanno contattato è organizzare un gruppo di volontari selezionati, fidatissimi selezionati, che comunque da subito venissero due volte al giorno, quindi mattina e pomeriggio, tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7, a stimolare Bruno. Quindi all'inizio è stato necessario stimolarlo con un po' di cibo, quindi richiamare la sua attenzione con qualche pezzettino di finocchio che lui adora, o il pezzettino di mela e tutto, perché lui scoprisse di nuovo l'interazione con l'essere umano, che poteva essere anche piacevole. Abbiamo avuto delle bellissime gioie proprio perché in tempo di 48 ore Bruno ha proprio cambiato quello che potremmo definire un'espressione, si è proprio risvegliato. Qualche settimana fa, forse lo ricorderete, vi abbiamo raccontato Una notte a Capalbio, un reportage che abbiamo intitolato Aspettando Caretta. Sulla spiaggia toscana, famosa perché frequentata da cosiddetti VIP e in particolare da quella che potremmo chiamare sinistra velista, era avvenuto un evento eccezionale, la deposizione delle uova da parte di una tartaruga marina Caretta Caretta. Un evento storicamente insolito, ma già accaduto l'anno scorso poco lontano a Orbetello. Quest'anno però il caso era particolarmente interessante perché l'avvistamento da parte dei turisti della tartaruga madre avrebbe permesso di acquisire molte informazioni sul processo di riproduzione, gli orari prescelti per costruire il nido, il tempo di incubazione delle uova e le caratteristiche morfologiche e l'età della madre che era stata fotografata. Per documentare tutto e proteggere l'incubazione, Legambiente e WWF avevano organizzato un presidio permanente, giorno e notte, con turni di 6 ore, trovando la partecipazione entusiastica di molti volontari. Pochi giorni fa, passati ormai quasi 90 giorni dall'avvistamento della tartaruga madre, e senza che nulla fosse successo, si è deciso di scavare e di verificare che cosa fosse accaduto. Le uova c'erano davvero? Se sì, perché i piccoli non sono spuntati dopo così tanto tempo? Tutti morti? Assaliti da un predatore? Ecco com'è andata. Nella seconda puntata del reportage Aspettando Caretta Caretta scoprirete l'arcano mistero. Siamo tornati sulla spiaggia di Capalbio, la cittadina toscana nella Maremma, dove il 21 luglio scorso due turisti svizzeri avvistarono una tartaruga marina Caretta Caretta sulla spiaggia, proprio davanti all'ingresso del campeggio Capalbio. La tartaruga si era spinta fin lì, probabilmente per deporre le uova. Sono passati più di 80 giorni e alla fine la regione toscana, l'ARPAT e l'Università di Siena hanno deciso che non si può aspettare oltre, anche perché le condizioni ambientali con l'abbassamento delle temperature sono ormai tali da pregiudicare l'incubazione delle uova. E si è quindi deciso di scavare. Io comunque, da dove mi hanno detto che la tartaruga dopo un'ora e mezza era a campagna davanti all'ultima spiaggia. Una funzionaria dell'ARPAT e una ricercatrice dell'Università di Siena si mettono all'opera con le mani per evitare di danneggiare le uova qualora ci fossero. Attorno a loro i rappresentanti di Legambiente, del WWF, in testa Fabio Cianchi, che è stato uno degli organizzatori della sorveglianza, e poi un gruppetto di una ventina di volontari che sono venuti anche oggi per assistere a questa operazione nella speranza, che ancora non è del tutto tramontata, che le uova ci siano davvero e che possano finalmente schiudersi. Il primo scavo è terminato a quota 47 cm nel punto preciso indicato dal georadar e delle uova non c'è traccia. Si tratta quindi ora di individuare un altro punto dove scavare. Sì, lì, dove c'è quell'impronta. È un po' più lazzo, ma nel centro proprio di questo cerchio. Allora ci si allinea qua? Sì, un po' più qua, guardi. Dove... Metti la mano a sinistra, vai avanti, no, avanti, a sinistra. Va avanti verso la buca, ecco lì dovrebbe essere il centro all'incirca, quella parte lì. Parte un nuovo tentativo, stavolta scavano anche i volontari. Verso, non capito, nello spigolo. Ora si procede con il terzo scavo, stavolta vicino al palo esterno della recinzione, indicato sulle mappe come punto zero, si è capito che probabilmente è il punto indicato a suo tempo dai turisti svizzeri. Altri tre volontari si sono messi all'opera per vedere se stavolta c'è traccia delle uova di tartaruga. Le facce però delle persone che sono ancora qui ad osservare le operazioni volgono verso il brutto, un po' come il tempo, c'è una tempesta di sabbia molto forte e diverse persone si sono riparate dietro la duna, fra le piante. Anche il terzo scavo è andato a vuoto. Nuove analisi sulle stesse mappe del georadar hanno portato a una nuova ipotesi, un metro e mezzo più in là, in corrispondenza del tavolino che per tutta l'estate è stato il punto di riposo, di ritrovo per i volontari. I tentativi di scavo a questo punto sono anche 6, 7, 8, si moltiplicano, si cominciano a usare anche le vanghe con la forza della speranza e un po' anche della disperazione di non riuscire a trovare traccia delle uova. A questo punto l'ipotesi più probabile è che la tartaruga avvistata sulla spiaggia sia in realtà rientrata in acqua rinunciando a deporre le uova, non avendo trovato un ambiente favorevole. Cecilia Mancusi è la funzionaria dell'ARPAT che ha seguito la vicenda e che ha scavato per prima. Delusa? Un pochino sì, un po' di speranza c'era di trovare qualcosa. Non le è piaciuto il posto in qualche modo? Forse no, c'era forse qualcosa. È tornata in un altro momento, forse anche non molto lontano da qui, a deporre veramente le sue uova, ma nessuno l'ha poi intercettata. O magari era ancora una tartaruga, diciamo, alle prime armi, alle sue prime esperienze di deposizione, che non deve ancora capire bene come funziona la cosa e magari ci riprova il prossimo anno. Due mesi di sorveglianze, due mesi di speranze, di notti trascorse all'addiaccio pensando alla tartaruga. E alla fine a dischiudersi non sono le uova, ma la prospettiva indicata già nell'opera di Beckett che abbiamo preso parafrasandola per intitolare i nostri reportage, Aspettando Caretta. Caretta non è venuta fuori, come nel dramma di Beckett, dove si aspetta Godot. E Godot non arriva mai. TripAdvisor, il sito di viaggi che fra le altre cose vende biglietti e permette alle persone di recensire e dare un voto ai locali pubblici, ha preso una decisione interessante. Non vendere più i biglietti per le attrazioni e le esperienze turistiche in cui i turisti entrino in contatto fisico con animali selvatici o in cattività o con specie in via di estinzione, incluse tra le altre attrazioni che prevedono percorsi in sella ad elefanti, accarezzare i tigri e nuotare con i delfini. La decisione è frutto di un accordo stretto con alcune organizzazioni di tutela degli animali e porterà anche TripAdvisor a creare un portale informativo sulle specie protette, selvatiche o in cattività. Vi segnaliamo un importante appuntamento sabato 29 e domenica 30 ottobre a Bologna. È l'edizione 2016 delle giornate internazionali sulla relazione uomo-animale. Organizza la SIUA, fondata da Roberto Marchesini, etologo e pensatore ben conosciuto agli ascoltatori di Restiamo Animali. Particolarmente interessante il tema scelto quest'anno, menti non umane. Fra gli ospiti che interverranno durante le due giornate, oltre allo stesso Marchesini, segnaliamo tra gli altri Alberto Giovanni Bluso, Dominique Lestel, Bernardo Trost e altri filosofi, studiosi e pensatori che certamente allargheranno il campo rispetto a ciò che normalmente si intende per mente, psiche e capacità cognitive. Dicevamo che l'orso bruno ha concluso il suo percorso di individuo terrestre probabilmente infelice e di sicuro stremato, ma non prima di aver visto la fine del parco prigione dove è stato costretto a passare la sua intera esistenza. Che ne sia stato cosciente è una nostra ipotesi che non può essere verificata e nemmeno smentita, mentre è ormai documentato e potremmo dire quasi ovvio che gli animali, quando è possibile e come è possibile, tentano di ribellarsi alle condizioni di prigionia e provano ad evadere. Sono imprese sempre molto difficili, spesso disperate, ma alle volte vanno a buon fine. E così mucche, capre, cavalli, pecore, la casistica può essere infinita, riescono a cavarsela, sovente con l'aiuto di animali umani che intervengono in loro aiuto. Gli amici del blog Resistenza Animale oggi ci propongono una storia insolita proveniente dalla Liguria che riguarda un gruppo di mucche e di tori. Sentiamo. La notizia viene data da un quotidiano e descrive una piccola mandria di bovini che già da qualche anno si è conquistata la libertà dalle parti di Masone e di Mele sull'Appennino Ligure, tra Voltri e Ovada. L'articolo del giornale che ne dà notizia intitola il suo pezzo citando esplicitamente «Mucche pazze che assediano i paesi di queste valli». Le parole del titolo vengono usate spesso, in casi come questi, dai nostri giornalisti, che non si fanno mai mancare il sarcasmo e l'ironia, ma anche per riconfermare implicitamente che ogni animale deviante è ovviamente un folle da neutralizzare e rinchiudere in quanto pericoloso. La citazione delle mucche pazze ci riporta però per un istante anche ad altri fatti, ad altre istantanee che molti di noi conservano ancora nella memoria e che raccontavano, mostrandoceli, dei roghi di migliaia di mucche sterminate nelle campagne inglesi dell'estate del 2000. Mucche pazze, anche loro, come quelle di questo titolo, mucche infettate da un sistema industriale degenerato, mucche che furono cremate in massa, pubblicamente, nell'indifferenza quasi generale. I video di quei roghi avevano fatto il giro del mondo, forse perché riportavano alla memoria altri roghi, tristemente famosi, di cadaveri ammassati. Questi, purtroppo, avevano però scalfito l'immaginario solo di pochi. Non hanno rappresentato nient'altro che l'ennesima insignificante pagina di quella guerra permanente ingaggiata contro gli animali. Una guerra invisibile, nel senso che non si vuole e non si deve vedere con il giusto sguardo. La mandria di Masone di Mele ci riporta invece con un contraccolpo visivo e mentale ad una realtà completamente diversa, dalle moltitudini sterminate ad una sterminata moltitudine, per citare una bella frase di un amico. Dall'allevamento ligure erano evasi in 5, 3 mucche e 2 tori, e oggi sono diventati molti di più, quasi una dozzina. Qualcuno ha detto che la rivolta ha spesso umili esordi, ma una volta iniziata non si ferma. Così ci piace pensare di questa rivolta, di questi animali che oggi si nascondono ancora nei boschi. Ma la cosa straordinaria, quella che colpisce di più, è che questi animali sembrano dirci di non avere paura. Si intuisce tutta la loro forza, la loro determinazione e soprattutto quell'essersi liberati dalla paura. È questo, più di ogni altra cosa, che desta meraviglia e ammirazione. Più ancora del fatto che abbiano imparato a saltare tra le rocce come stambecchi, o a nutrirsi nei paesi di notte come fanno i lupi, o ancora di trovare i fiumi dove bere quando c'è siccità. Anche il loro mantello si è modificato ed oggi è ricoperto da un folto pelo per combattere il freddo di quelle montagne. Questa storia ci dice tutto il loro coraggio, che sembra trarre forza anche dal fatto di essere un gruppo, di essere uniti, quasi una microcomune, insomma, di cui non possiamo non riconoscere la forza politica e l'importanza. Perché, come ha scritto qualcun altro, è il potere ad avere paura quando i suoi soggetti se ne liberano. Perciò un invito, scriviamo, telefoniamo, mobilitiamoci e disturbiamo tutto il disturbabile. Facciamoci riconoscere e riconosciamoci insieme a loro, scalzando ogni paura, come parte di un progetto comune che parla di liberazione reciproca. Per salvare le mucche e i tori di Masone e Mele è in corso una campagna di mail bombing e di pressione sul comune e sulla ASL locali. Tutte le informazioni sul nostro sito e sul blog resistenzaanimale.noblogs.org. Secondo te, ora che sta diventando una star, il nostro tosco vegan chef, ma questa settimana la ricettina ce la darà oppure non ce la darà? Ce la deve dare, questo non può scampare, visto che altrimenti non parleremo del suo libro che è in uscita. Infatti questa volta non diciamo nemmeno qual è il titolo. Vediamo se spunta la ricetta e poi se ne riparla. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. No. La ricetta di questa settimana la dedico a Bruno. Anche se non è minimamente sufficiente, dedica possa essere una sentita scusa per quello che la nostra specie ti ha fatto vivere. Per 4 persone per la zucca di Bruno sono 500 g di polpa di zucca, 100 g di zucchero di canna, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di salsa di soia, un ciuffetto di coriandolo fresco, un pizzico di cannella in polvere, un pizzico di noce moscata, qualche chiodo di garofano, sale e pepe. No. Fate sciogliere lo zucchero di canna in un pentolino coprendolo con acqua. Fate ritirare a fuoco lento fino a quando non si formerà uno sciroppo denso. Aggiungete le spezie in polvere e i chiodi di garofano e lasciate raffreddare. A parte, togliete la buccia della zucca e pulitela dai semi e tagliatele a cubetti. Con l'olio, il vino bianco, il coriandolo tritato finemente, la salsa di soia e poco sale e pepe. Marinare per almeno 30 minuti. Portate il forno a 180 gradi e unite lo sciroppo di zucchero di canna con le spezie alla zucca marinata. Sistemate in una teglia da forno e fate cuocere per circa 30-40 minuti. Servite calda accompagnando con del pane grigliato come un originale antipasto o accanto ad una seconda portata dal gusto deciso come uno spezzatino di seitan al vino rosso. Andiamo in Veneto per la nuova tappa della lotta contro la costruzione di un allevamento di bisoni a Villadose, in provincia di Rovigo. Essere Animali e LAV nelle settimane scorse hanno raccolto migliaia e migliaia di firme con l'obiettivo di fermare il progetto sotto la spinta popolare, trovando anche l'appoggio del Consiglio Comunale, che ha approvato una mozione per tentare di bloccare l'allevamento, chiedendo al Parlamento una rapida approvazione della legge che vieterebbe l'allevamento di animali da pelliccia su tutto il territorio nazionale. Il caso è ancora aperto e sabato 22 ottobre è in programma una manifestazione pubblica a Villadose. Troverete dettagli anche sul nostro sito. Dal Veneto alla Toscana per una notizia di cronaca nera, brutta ma tipica delle giornate di caccia. Il fatto è avvenuto sulle colline di Lustignano, in Val di Cecina, nel Pisano. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Tirreno, un cacciatore avrebbe colpito con il calcio del fucile una donna, proprietaria di un terreno, che si sarebbe rifiutata di consegnare il cadavere di una lepre appena uccisa dal cacciatore stesso. La violenza sarebbe frutto di un diverbio e di uno scatto di rabbia da parte dell'uomo. Per soccorrere la malcapitata è stato necessario far intervenire l'elisoccorso della regione toscana. I carabinieri sono intervenuti e, come si dice in questi casi, stanno conducendo un'indagine. Cercheremo di seguire il caso nelle prossime settimane. Mac & Mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. L'artista di questa settimana è Moby, personaggio eclettico che è uscito con un nuovo lavoro che spiazza chi era abituato alle morbide tonalità di Play. Si chiama This System Are Failing. Sono 12 tracce in cui vengono frullati Brian Eno, New Order, Joy Division, House Music anni 90, passione del nostro Moby, il punk rock, le sonorità new wave anni 80 e testi che raccontano del malessere della nostra società, dalla morte degli animali a quella del pianeta. Nella puntata avete sentito dei piccoli assaggi dell'energia che ha sfoderato Moby, ma ora ci gustiamo un brano quasi per intero, che è anche il primo singolo, che si chiama Are You Lost in the World Like Me? E il titolo dice tutto. Ha anche un bel video questo brano, in stile Betty Boo, che però è per niente allegro. Buon ascolto con Moby. Anche per questa settimana stiamo giunti al termine. Ringraziamo i volontari della Leal, Marina Menichelli, Gabriele Palloni, il blog di Resistenza Animale, Fabio Cianchi e Cecilia Mancusi, l'onnipresente, anche se assente, Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco. L'appuntamento quindi è per la settimana prossima, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.